ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua come ogni settimana per parlare di padri, per parlare ai padri. Ed è l'ultima puntata di questa stagione, Matteo. Fede, è una settimana tristissima perché so che non ti rivedrò più fino a settembre. Adesso ci saranno le vacanze, agosto da guardare, una settimana di mare con le bambine, i compiti delle vacanze da fare. Ma io penserò solo a te. No, tu pensi alle vacanze con la bambina. Mi stai già soffrendo per la vacanza con le figlie. No, tra l'altro stavo pensando, insomma, che è stato di fatto un'annata dove non ci siamo visti per diversi mesi, perché comunque abbiamo fatto radio a distanza. Però è sempre strano, no? Dirsi, ok, non ci sentiremo nemmeno, sì, per i fatti nostri, per amicizia, però insomma per qualche puntata tutto agosto. Insomma, torniamo il 6 settembre con tante nuove idee per arricchire sempre di più il nostro programma. Anche oggi tante storie, parleremo ovviamente di vacanza, parleremo di baci che ci daremo a settembre, ma iniziamo andando in montagna. L'energia degli Iron Maiden per appunto raccontare questa storia che si è conclusa pochi giorni fa, la storia di un padre che ha deciso di spiegare una delle meraviglie italiane al proprio figlio di 2 anni. Questa meraviglia sono le Dolomiti di Brenta. Come spiegare le Dolomiti di Brenta? Portandolo sulle Dolomiti di Brenta. Che è sempre la maniera migliore. Certo. Quindi, vieni figlio, ti porta a fare un giro in bicicletta attorno alle Dolomiti. Non gliel'ha solo detto, ma l'ha fatto e ha realizzato questa impresa. Diamo il benvenuto ad Alessandro De Bertolini, che è un giornalista appassionatissimo di ambiente, di montagna e di viaggi con qualsiasi mezzo possibile. Ciao Alessandro, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi, grazie per l'attenzione. Allora, veramente ti sei caricato, è il caso di dirlo, in bici in spalle tuo figlio e lo hai portato lassù, ma cosa gli hai detto? Andiamo via un weekend? Come l'hai dovuto convincere? Gli hai tirato un trappolone? Cioè, com'è andata? Beh sì, Lorenzo è ancora molto piccolo perché non ha nemmeno compiuto 2 anni, quindi ho scelto di portarlo con me per un periodo di alcuni giorni, facendo quello che in realtà abbiamo sempre fatto. Fin da quando lui aveva 7-8 mesi lo caricavo nello zaino oppure nel marsupio, poi un pochino più grande lo mettevo nel carrito della bicicletta per andare in montagna. Io abito al passo della Trento e Bolzano, in un luogo quindi dove i sentieri e le forestali sono a portata di mano. L'idea è nata così, non vedevo l'ora di trascorrere del tempo con mio figlio e in questo modo sono riuscito dall'alba al tramonto, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, a passare il tempo con lui. Il progetto si chiama così, il parente ha spiegato a mio figlio, e nasce da una bella collaborazione, da un'intesa molto forte tra Montura Editing e il Parco Naturale Adamello Brenta. Che cosa volevo fare? Volevo spiegare a mio figlio, diciamo così, che l'ambiente naturale che stiamo utilizzando, ecco, quello che usiamo, che abitiamo, lo abbiamo ricevuto e che lo dovremo riconsegnare, no? Perché in qualche modo siamo tutti di passaggio e che per questa ragione non possiamo depredarlo. Ecco, questo era il messaggio che volevo insegnare. Alessandro, no, attraversando il parco. Ma appunto il Brent ha spiegato a mio figlio, no? La cosa che mi ha più colpito di questa vostra esperienza è proprio, o anche che tuo figlio è molto piccolo, quindi quale migliore spiegazione di mostrare, mostrargli direttamente le cose. Che cosa sperichereste a tuo figlio di questa esperienza? Questa è una bella domanda, perché è così piccolo che non so quanto potrà ricordarsi di questa esperienza attorno al Brent. Però insomma, la speranza mia, oltre che quella di trascorrere tanto tempo con lui, era di creare un legame, no? Di creare un legame con me e di creare un legame con la montagna. In questi anni, dai 0 ai 3, dai 0 ai 6, insomma, sappiamo, no, che si formano le cosiddette mappe cognitive, le mappe emotive. Ecco, Freud diceva che si formano fino ai 6 anni, le neuroscienze sono ancora più dure su questo, dicono che si formano dai 0 ai 3 anni. La speranza che ho è questa qui, che nel suo percorso formativo rientrino questi insegnamenti e il rapporto con la montagna, il rapporto di rispetto con la montagna e la cultura della montagna. Ma mentre Alessandro invece ha questa esperienza che è durata una decina di giorni, se non sbaglio? È durata una decina di giorni, i primi 7-8 io e Lorenzo, gli ultimi due con la mamma, che era previsto che ci raggiungesse per controllare che fosse per controllarsi, sì. Devo dire che il suo permesso prima della partenza è stato fondamentale. Non sarei mai potuto partire senza il via libera della mamma, che non è solo la mamma ma è anche un medico, quindi ha ragione due volte, comanda due volte, perché la mamma perché è un medico. Alessandro, mi chiedo, ma ti ha un'esperienza lunga per certi aspetti, breve, perché comunque insomma 10 giorni sono comunque una piccola parentesi nel corso di una relazione, però ti ha cambiato un po' come padre? Non lo so, nel senso che non avevo la pretesa, nemmeno la speranza di essere un modello educativo. Sto seguendo anche empaticamente il bisogno di stare con mio figlio e cerco di farlo facendo quello che facevo prima, senza di lui, prima che lui nascesse. Mi ha cambiato forse sì, perché dopo 10-11 giorni trascorsi con Lorenzo, quando sono rientrato al lavoro, non vedevo l'ora di tornare a casa per rivederlo. Accadeva anche prima, intendiamoci, ma adesso ancora di più. Dopo 10 giorni a stretto contatto, intendere il sacco a pelo con Lorenzo, tornare al lavoro, doverlo salutare al mattino e ritornare a casa la sera, non è stato proprio facile. Ecco, l'ultimo giorno siamo tornati a casa e gli ho detto: Lorenzo, guarda, è finita questa vacanza, ma non ci credevo neanche io, quindi non era facile convincerlo. Alessandro, senti, questa vostra esperienza si può vedere anche a posteriori, no? Sul tuo profilo personale o sui social, magari insomma, nella speranza che possa essere di ispirazione anche a qualche altro padre? Sì, sui social, su Facebook ho raccontato giorno per giorno con una serie di post quello che vivevamo, anche qualche profilo culturale, storico culturale del parco Adamello Brenta, ma soprattutto con le fotografie del giorno per giorno, le mie e quelle di Lorenzo. Però Alessandro, scusa, perché adesso ha detto una cosa importante Matteo, no? Ispirare altri padri, ma bisogna essere dei super padri per fare questa impresa o è comunque è abbastanza alla portata di un padre medio, diciamo? Ma no, ecco, su questo, questa è una bella domanda e vorrei proprio sottolineare che no, non è un'impresa, non bisogna essere dei padri speciali, non bisogna essere degli atleti, non bisogna essere dei supereroi, basta essere delle persone normali. Se non si vuole fare tutta la fatica che ho fatto io, basta prendere una bicicletta elettrica, un e-bike, no? I sentieri ci sono e li si possono fare ugualmente. Ho ricevuto inaspettatamente, e questo è il debito di gratitudine più grosso che mi porto dietro, un affetto enorme dalle persone che hanno letto sui social la mia esperienza, attraverso i post, le loro reazioni, le loro frasi. Questo mi ha riempito il cuore mio, di Lorenzo e anche quello della mamma, ma da alcuni di loro ho avuto la sensazione che si rivolgessero, no, come dire, ma che impresa stai facendo? No, ho fatto una cosa normalissima che è alla portata di tutti, e questo ci tengo a dirlo, ripeterlo e sottolinearlo. E noi ci crediamo. Alessandro De Bertolini, lo ringraziamo, questo nome e cognome, per chi volesse appunto andare a rivedere l'impresa sui social. Grazie davvero Alessandro, e poi tra qualche anno magari ci risentiamo e intervisteremo il figlio per capire cosa vediamo cosa ne pensa, no? Sarà quella poi la prova del nome. Esatto. Vediamo cosa ne pensa, sono curioso. Ciao Alessandro, grazie, buona domenica, buona storia. Grazie molto, buona giornata. Ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Padri Eterni. Andiamo in vacanza, Matteo, insomma, che il periodo delle vacanze, l'abbiamo detto mille volte nel nostro programma, è comunque un momento importante perché i tempi si dilatano, i tempi cambiano, quindi diventa un momento privilegiato, no? nella relazione, soprattutto con i propri figli. Sì, anche per evitare poi, no, quel discorso temutissimo di quando soprattutto i padri tornano dalle vacanze più stanchi di quando sono partiti. Qui stai un po' personalizzando la questione, però come sempre, essendo momenti particolari, momenti anche delicati, momenti dove comunque serve una consapevolezza forse maggiore anche per ottimizzare proprio questo tempo e fare in modo di non cadere nelle nostre solite trappole, e chiediamo un consiglio, facciamo a un'esperta, ha scritto un bel pezzo su fanpage.it dedicato proprio ai genitori, 5 consigli per una vacanza con i bambini senza stress. Noi chiederemo qualche dritta per noi padri, e lo facciamo con Francesca Dallara, psicologa e psicoterapeuta dell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Policlinico di Milano. Ciao Francesca, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a voi. Secondo te, noi genitori e noi padri in particolare, durante le vacanze diamo il meglio o il peggio di noi stessi di solito? No, date il meglio, vi impegnate moltissimo per far passare delle belle vacanze alle madri e ai figli. Servono delle regole durante le vacanze, vuoi darci qualche consiglio? Ma sì, quello che stavamo, hai citato l'intervista, quello che avevo detto anche in quell'occasione è che un po' di regole per i figli, soprattutto se piccoli, ma non solo, sono sempre importanti anche in vacanza, perché alcune routine e alcune, l'ordine in generale dà pace ai bambini, hanno bisogno di sentirsi contenuti da dei confini, dentro i quali poi, essendo in vacanza, si possono esplorare e fare delle cose nuove, delle cose un pochino diverse dal solito, ecco. Però la cornice e la regola è sempre un buon ingrediente da mettere in valigia. Francesca, io parlavo scherzando, no, della stanchezza dei padri in vacanza, ma che credo origini alle volte, no, da questo senso di colpa che ci nasce repentino quando sentiamo all'improvviso di dover occupare tutto il tempo dei bambini, fare cose insieme a loro, portarli a vedere, portarli a fare, forse anche per recuperare quel tempo che magari durante l'anno non abbiamo avuto. Ti chiedo, è una buona idea o magari i bambini vanno lasciati anche stare, cioè bisogna lasciare spazio a volte anche a un po' di cara, vecchia e forse anche sana noia? Sì, questo è un argomento interessante perché mi trovo d'accordo sul fatto che ultimamente i padri, ma le madri, tutti un po' i genitori in generale, sono molto impiegati, impegnati ad intrattenere e comunque stimolare i bambini, che è una cosa molto bella e che sicuramente li aiuta a crescere, a scoprire cose nuove, ma dimenticandosi che i bambini hanno anche bisogno di annoiarsi e di autogestirsi un po' il loro tempo, nel senso che hanno una fantasia, una capacità di adattarsi alla situazione, trovando così degli spunti a loro misura, è migliore della nostra, degli adulti, per cui lasciati un po' alla noia, quello che potremmo osservare è che fanno cose molto interessanti e si divertono anche molto, sotto la veglia, lo sguardo di un genitore ovviamente, però trovo che la noia sia un buon modo di occupare parte del tempo nelle vacanze. Questo permette poi ai padri e alle madri di rilassarsi anche. Esatto. Poi c'è la questione compiti. In questi giorni proprio alcune madri, alcuni padri in rete hanno lanciato uno sciopero dei compiti estivi quest'anno, stanchi di tutto il lavoro fatto durante il lockdown, hanno detto almeno i compiti estivi, insomma, no, lasciateci in pace. E in verità i compiti ci sono e spesso danno un ritmo anche alle vacanze, no? C'è il momento del compito. E come va gestito tutto ciò secondo te? Sì, tante scuole in effetti quest'anno con cui mi sono confrontata per il mio lavoro hanno scelto di diminuire la mole dei compiti o di non dare il calovecchio sussidiario da compilare proprio per alleggerire le famiglie. Io non sono da tanto d'accordo, nel senso che senza caricare le giornate di ansia e stress e ore di compiti ovviamente, però come dicevi è un momento che struttura la giornata e tiene il cervello allenato e anche come dire abituato a pensare a delle cose, a imparare delle cose. E il modo migliore per farlo secondo me è trovare nel tempo vacanza non itinerante in giro per il mondo, cioè dipende da dove si trovano le famiglie, però trovare un momento della giornata che il bambino fin da subito sa è quello dedicato allo studio, un tempo che non sia eccessivo, quindi che non diventi poi un carico per i genitori e per i bambini, e poi far scegliere insieme al bambino quello che è un programma. Stendere un programma dei compiti, che ne so, della settimana per esempio, sapendo quello che gli aspetta, quanto gli aspetta, e in modo collaborativo trovare quello che si ha voglia di fare in quei giorni lì, insomma matematica oggi, domani italiano, una cosa semplice però che li faccia sentire anche protagonisti un po' del loro studio. Francesca, lasciando uno spazio sempre dedicato però secondo me a questo. Francesca, ma al di là del discorso dei compiti, ti chiedo più in generale, soprattutto dal punto di vista di noi padri, è più utile programmare in vacanza o lasciare spazio all'improvvisazione? Secondo me un programma di massima ci deve essere, nel senso che i bambini devono più o meno sapere che cosa li aspetta. Lasciati all'anarchia tendono a far salire l'eccitazione, e l'eccitazione poi sfocia, specie se piccoli, in tragedia, pianto, capriccio, perché non sanno autoregolarsi, quindi di cornici, di contenimento, un po' di programmazione hanno bisogno. E dopodiché però, essendo in vacanza, c'è l'imprevisto, ma c'è anche la novità, e quindi dentro dei momenti strutturati si può poi lasciare alla naturalezza di decidere all'ultimo minuto che cosa fare, però ecco, l'anarchia no, nel senso che peggiora la qualità delle vacanze anche ai genitori, non solo affatica i bambini, perché poi non basta mai, lo sappiamo, i bambini non andrebbero mai a dormire, i bambini non mangerebbero mai o mangerebbero troppo, insomma hanno bisogno di un adulto che li regoli e li faccia vedere quali sono le cose importanti da tenere solide. Il resto poi... Certo, sì, sì. Un adulto però che non sia sempre a disposizione, questo è l'ultimo consiglio che dà Francesca nel suo articolo e appoggi in pieno questa cosa, perché come hai detto tu insomma, è una ricerca continua di equilibri, no? Cosa fare, cosa non fare, i compiti, il tempo libero, e c'è anche quello dell'esserci ma anche del saper non esserci, altrimenti diventa altra cosa la relazione, non è più quella genitori e figli. Sì, perché la vacanza è anche un'occasione di autonomia per i bambini, sì, brava. E quindi va sicuramente... No, sfruttata questa occasione. Sfruttata, sì, sono d'accordo. Ringraziamo Francesca Dallara, psicologa e psicoterapeuta dell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Policlinico di Milano, per essere stata qua con noi in questa ultima puntata della stagione dei Padri Eterni. Ciao Francesca, buona domenica. Ciao, grazie a voi. Ciao Francesca. Buone vacanze. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Alfonsina le tette sgonfie, Alfonsina si faceva fino alla mattina, Alfonsina le gomme piene, Alfonsina una ragazza, questa storia non conviene, Alfonsina le gomme piene, Alfonsina che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene, Alfonsina le tette sgonfie, Alfonsina si faceva fino alla mattina. Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale, lui ostinato rifiutava. È Mi tocca ringraziare Danilo, il nostro Danilo Di Trani, per aver scelto questa canzone, Alfonsina e la bici di Ted Dubois, uno dei miei pezzi preferiti, con Marguerite Hack che interpreta il video, una fantastica Margherita trasformata in una sorta di meccanico di bicicletta. Insomma, vi consiglio davvero di ascoltare il brano, ma anche di guardarvi il video, video che ci introduce nel prossimo... La prossima storia, una storia che, insomma, per la nostra generazione insomma, è una di quelle immagini, di quelle fotografie tristi che comunque hanno segnato, no? Certo. i nostri ricordi. Sono passati 25 anni, era il 18 luglio del 1995 quando un campione di ciclismo italiano, era campione olimpico a Barcellona nel 1992, cadde durante la 15ª tappa del Tour de France, e quella caduta sui Pirenei francesi fu fatale. L'avete capito, stiamo parlando di Fabio Casartelli, una persona che veramente è rimasta nella memoria dei colleghi, era amatissimo, no? Nell'ambiente, perché era una bella persona, come solo le belle persone sanno appunto lasciare un segno. 25 anni dopo abbiamo il piacere di avere qua con noi Marco Casartelli, che è il figlio di Fabio, figlio che era nato un paio di mesi prima, era piccolissimo. Di fatto, Marco, tu non l'hai conosciuto papà? No, infatti no, purtroppo avevo solo 2 mesi, quindi non ho avuto il piacere, insomma. Grazie intanto per essere qua con noi, per aver accettato di fare questa chiacchierata, che era un po' per capire anche con te, no, il percorso che hai fatto poi negli anni per scoprire tuo padre. Certo, innanzitutto grazie a voi, prima di tutto. E, il percorso in realtà è stato una cosa molto naturale, molto semplice. Ho avuto la fortuna di avere tante persone attorno che amavano mio babbo, e quindi mi hanno un po'... hanno dipinto questo quadro che io ho di lui, di com'era, di tutto ciò che mi hanno sempre raccontato, insomma. Marco, ma come ti fa sentire tutto questo? Nel senso che tu, come diceva Fede, no? Naturalmente hai vissuto questa tragedia che eri piccolissimo, e per quanto tu sia dispiaciuto di non averlo mai conosciuto e di aver avuto questa grave mancanza, insomma, al contempo ti ritieni fortunato, hai detto, per tutto l'affetto e l'amore che hai sempre sentito nei confronti di tuo padre. Come ti fa sentire questo grande affetto delle persone? È una cosa un po' strana in realtà, nel senso che io, essendo così piccolo, sono cresciuto da sempre con questa consapevolezza di avere una mancanza di una persona che sostanzialmente io non ho mai conosciuto. Cioè, se non fosse stato per i figli, io non avrei mai avuto idea nemmeno del suono della sua voce. Ed è una cosa molto triste. Dall'altra parte mi sono sempre ritenuto fortunato, perché tutte queste persone che ti volevano bene sono sempre state lì per noi, pronte ad aiutarci, a farci sorridere, a dimostrarci ogni cosa. E in più, comunque, devo tutto a mia mamma e ai miei nonni, che non mi hanno mai fatto mancare niente. Marco, ti chiediamo un minuto di pazienza, adesso ci fermiamo, c'è il meteo, la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. E sabato non perdete il meglio di Ma cos'è quest'estate? Un riassunto degli avvenimenti più importanti della settimana. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Ultima puntata di questa stagione. Radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare il podcast della puntata di oggi, ma anche appunto di tutte le puntate passate, ma potete scriverci anche durante l'estate. padrieterni@radio24.it se volete contattarci, mandandoci dritte, idee, storie, le storie che ci piace raccontare, così in vista della prossima stagione. Con noi Marco Casartelli, stiamo ascoltando, no, queste belle parole di un figlio che a un certo punto, molto presto, no, ha scelto di andare a conoscere suo padre, di farlo attraverso il racconto delle persone, le foto, i video, le imprese sportive. Le hai guardate le gare di tuo padre, Marco? Sì, diciamo di sì. No, non sono mai stato un grande appassionato di sport, però mi è capitato di vederle assolutamente, soprattutto durante commemorazioni ed eventi, quando sono state proiettate, come la vittoria alle Olimpiadi e queste cose qui. Devo essere sincero, di mia spontanea volontà in casa non ho mai guardato niente di sportivo, ero più interessato alle cose quotidiane. Certo. Marco, ma guarda, oltre le imprese sportive, no, tu hai rilasciato una dichiarazione che ho trovato veramente molto bella, credo che sia una cosa che ogni padre sognerebbe di sentirsi dire dal proprio figlio. Tu hai detto che al di là appunto delle imprese sportive, del fatto che tuo padre era amato da tutti e ancora adesso tutti gli vogliono bene, tu sei più di tutto interessato ai suoi valori. Sì, è vero, nel senso che quello che intendevo è esattamente che sono consapevole che fosse un grande atleta, che ha avuto una carriera fenomenale, possiamo dire, però questo è un valore aggiunto, cioè se fin da piccolo, quando volevo scoprire qualcosa o conoscerlo meglio, ero più interessato a vedere magari com'era in casa o farmi raccontare che era abituato a fare rispetti a mio nonno e sapere quali o come lui e mia mamma si sono conosciuti, più che sapere quale corsa ha vinto contro chi e queste cose. Marco, grazie davvero per le tue parole. Grazie a voi. No, grazie, perché sono veramente, come diceva Matteo un attimo fa, sono parole che credo ogni padre, no, vorrebbe ascoltare. Fondazionecasartelli.it, ricordiamo il sito della fondazione per chi volesse maggiore informazione anche su tutte le attività proposte. Grazie ancora per essere stato con noi e buona estate. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao Marco. Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola! Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B. Mamma, lasciami la mano, un bambino non so più. Mamma, tienimi la mano, non conosco nessuno. Mamma, stringi forte la mia mano, non sono amico di nessuno. Chi saranno i miei compagni? Quello di meglio di no, lo conosco dall'asilo e mi sta sulle balle. Elio e le storie tese, il primo giorno di scuola. Insomma, oggi c'è una playlist che sarebbe da ascoltare. Ma Danilo veramente ci sta regalando delle perle per questa ultima puntata. Che insomma, c'è anche un po' di sadismo, no? Siamo qui che parliamo di vacanza, ma noi invece vi portiamo già al primo giorno di scuola. Sì, non solo al 6 settembre, quando noi torneremo con i Padri Eterni, domenica 6 settembre, ma andiamo a settembre con un bel libro a cura di Marco Erba, che oltre ad essere uno scrittore è anche un insegnante di italiano, e che ha curato questo libro intitolato Ci baciamo a settembre, quindi mi sembra, insomma, il titolo, un bel augurio, il titolo adatto, esatto. Ed è un racconto di come gli adolescenti hanno vissuto la quarantena, quindi ci sembrava un bellissimo quadro per conoscere un po' meglio le nostre figlie e i nostri figli. Ciao Marco, benvenuto ai Padri Eterni. Ciao a tutti. Allora, intanto, come nasce Ci baciamo a settembre? Nasce questa idea dal fatto che ci è sembrato che durante il lockdown, durante la quarantena, di scuola abbiano parlato tutti, tranne che i diretti interessati, cioè i ragazzi. Giustamente si sono espressi i politici, gli esperti di educazione, i pedagogisti, i dibattiti sulla didattica a distanza hanno imperversato, però i ragazzi, la loro voce è un po' passata sotto silenzio, e quindi l'idea è stata chiedere ai ragazzi di raccontare un pezzo della loro quarantena. Naturalmente hanno parlato di scuola, ma non solo, per sentire la loro voce. L'idea che mi guida come insegnante è che dentro ai nostri adolescenti ci sia una grande bellezza, che a volte viene un po' trascurata perché fanno notizia di solito i fenomeni di devianza, però credo che un educatore, un insegnante debba andare alla ricerca di queste scintille di bellezza e dargli spazio, e dal libro queste scintille emergono potentemente, emerge tanta resilienza e tanta positività e voglia di ripartire. Marco, c'è tanta bellezza, ma devo dire anche tanta intelligenza. Cioè, la meraviglia è stata scoprire che in questi racconti scritti dai ragazzi, in queste testimonianze, intanto che sono scritti benissimo, dove con scritti benissimo non intendo tanto la fluidità della lingua, la correttezza di grammatica e sintassi, ma proprio la costruzione delle immagini e delle scene. Sono veramente sorpreso, no? Perché spesso diciamo, soprattutto noi padri, no, che i nostri figli magari non leggono più, figuriamoci scrivere. Invece questo libro contiene del talento vero, delle testimonianze veramente interessanti. Sì, assolutamente sì, anch'io sono rimasto sorpreso, ma posso garantirvi che sia io come curatore che la redazione di Rizzoli ha fatto ben poco. Abbiamo fatto dell'editing sui testi, sostanzialmente assemblandoli e selezionandoli, ma quella è la loro voce. Quindi testi anche ironici, leggeri o molto profondi sono farina del loro sacco, così come è farina del loro sacco un concetto che emerge più volte, che mi ha colpito tantissimo, su quanto ai ragazzi che sono dalla prima media alla quinta superiore sia mancata la scuola. C'è un testo meraviglioso, certo, di un ragazzo che dice: sono come un prigioniero che quando è tra le quattro mura del carcere odia quelle mura e vorrebbe essere libero, ma una volta che è fuori ha perso tutti i suoi riferimenti e gli manca la prigione. Paradossalmente quella scuola tanto criticata, tanto oggetto di meme, tanto descritta in modo anche parodico, grottesco, ironico, una volta che non c'è i ragazzi si sono resi conto di quanto sia fondamentale per la loro crescita e punto di riferimento ineludibile. Infatti Marco, è un po' questo credo uno dei punti importanti, no? Che anche a noi padri, noi genitori può essere utile, perché immagino che la scuola sia mancata non tanto come luogo dell'apprendimento, ok, c'è anche quello, però forse proprio come spazio sociale, spazio delle relazioni, qualcosa, non ti dico di alternativo alla famiglia, ma sicuramente di complementare. Quindi la scuola per tante ragazze e tanti ragazzi, forse anche come unica parentesi in cui veramente socializzare, in cui veramente poter esprimere la propria identità, che fa molto riflettere questo, no? Cioè vuol dire che comunque la scuola è importante, ma anche che forse non ci sono alternative. Assolutamente sì, mi ha colpito tantissimo il brano di una ragazza di quinta superiore che parla proprio di quello che dicevate adesso. Lei parla, si intitola Quelli della maturità del Covid, perché ovviamente lei ha fatto la maturità in questa situazione del tutto inusuale, ma quello che mi ha colpito di quel brano è che lei scrive: io so che la maturità sarà più facile, so che con la didattica a distanza il percorso scolastico è semplificato e anche senza impegnarti al massimo in qualche modo puoi cavartela, ma nulla ripagherà le relazioni che ho perduto, l'emozione della notte prima degli esami scritti, la festa dei 100 giorni dalla maturità. E dice una cosa molto bella: quei compagni di classe con cui ho camminato, sia quelli più vicini che quelli più lontani, sono diventati parte della mia vita in modo insostituibile e tutti mi hanno lasciato qualcosa di bello e di forte. È molto significativo questo, perché la didattica non è semplicemente questione di trasmissione di nozioni, se no guardo un documentario di Alberto Angela che su certi temi ne sa anche più di me, no? Però a scuola passa la relazione, un educatore, e io credo che un insegnante sia prima di tutto un educatore, deve giocarla sul piano della relazione. E per quello, certo, la presenza fisica è assolutamente fondamentale. Ma tra l'altro poi ci sono dei testi, guarda, penso a quel testo bellissimo sui promessi sposi, no? In cui si fa quel parallelismo, no, tra la peste quando arrivò a Milano, che anche nei promessi sposi venne sottovalutata, e il Covid oggi, no, che ugualmente è stato sottovalutato quando tutti dicevano ma no, è solo un'influenza all'inizio, no? Come dire che i comportamenti degli umani si somigliano un po' in tutte le epoche, e in questo senso ti chiedo: questi testi ti hanno fatto riflettere più come padre o più come insegnante e educatore? Ma direi assolutamente in entrambi i sensi. Come insegnante mi ha colpito una cosa incredibile. Io leggendo quei testi sentivo dentro lì l'eco forse anche inconsapevole, di tanti autori classici. Voi avete citato Manzoni, e non torno su questo perché lì è stato citato esplicitamente, ma non so, c'è un testo di un ragazzo che rincontra la fidanzata dopo il lockdown, guardano insieme l'intera saga di Star Wars e lui dice: io non mi sono guardato la saga di Star Wars, ma guardavo, contemplavo lei, osservando le sue reazioni emotive, e solo guardare il suo viso era un'emozione indicibile. Cioè, praticamente è Dante che contempla Beatrice, la donna angelo, che passa per le strade di Firenze. È incredibile. Oppure una ragazza che racconta di aver idealizzato un ragazzo da cui ha preso la friend zone, quello che loro chiamano così, io che sono vecchio, alla mia epoca c'era il due di picche, e sembra di sentire Catullo che idealizza lesbia, i grandi poeti che hanno idealizzato una donna che poi li ha delusi. Questo sicuramente come insegnante. Come genitore mi ha colpito la ricchezza dei ragazzi e l'idea che vale la pena sperare sul futuro. Quando leggi un ragazzo di prima superiore che ti scrive che il Covid l'ha fatto pensare al futuro, lui ha sempre sognato di fare il magistrato, ma forse potrebbe anche essere un buon medico, ti commuovi, perché c'è un po' di idealismo giovanile. Però questo, già in prima superiore, ha l'idea che la mia felicità passa dal segno bello che lascerò sulla società di domani, che la mia felicità è fatta di relazione con gli altri. È una cosa che mi ha commosso come padre, anche questa. E questo è il diario sentimentale dal tempo senza scuola. Ci baciamo a settembre, edito da Rizzoli, a cura di Marco Erba, che ringraziamo per essere stato qua con noi ai Padri Eterni. Ciao Marco. Grazie a voi, ciao a tutti. Noi adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia pigro. Matteo, visto che inizia l'estate, andiamo in tour finalmente, adesso che si può, lo facciamo con un bravissimo artista che quest'estate, insomma, con alcune date mirate, porterà in giro le canzoni di suo padre. Stiamo parlando di Filippo Graziani. Filippo Graziani canta Ivan, è il nome appunto di questo progetto. Tra l'altro in estate lui ha anche uno spettacolo con Andrea Scanzi, Fuochi sulla collina. E diamo il benvenuto a Filippo Graziani. Ciao Filippo, buona domenica. Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Allora, a Coriano hai fatto il primo concerto dopo il lockdown, ti aspetta un'estate appunto sui palchi per cantare Papà, che credo sia sempre una bella emozione, poter fare la tua professione, quella dell'artista, e farlo con le parole di tuo padre. Ma esattamente, insomma, hai dato già una risposta esaustiva tu. Cioè, è un bel cerchio che si chiude, un bel modo per me per entrare dentro un repertorio che conosco così bene, ma che è sempre nuovo, no? E riesco sempre negli anni a vedere da diverse angolature, che è una grande fortuna, perché comunque è un repertorio grande, è un repertorio esteso, e quindi mi dà un parco giochi che non mi stanca mai, ecco. Ma Filippo, ma mi chiedevo infatti, no, cioè riproporre il repertorio di tuo padre, al di là adesso naturalmente della nostalgia, della gratitudine, no, è una maniera per sentirlo più vicino e per sentire anche da dove vieni come percorso, forse anche musicale, o c'è davvero la convinzione che le canzoni di tuo padre possano essere attualissime anche oggi, cioè che davvero vadano riscoperte come dei tesori preziosi? Ma io sono straconvinto che le canzoni di papà siano quasi forse più attuali adesso che prima, perché comunque papà per primo ha parlato di tante cose scomode che adesso sono diciamo all'ordine del giorno. Faccio un esempio: il bullismo. Insomma, papà ha raccontato bullismo in Kryptonite già tanti anni fa, Quindi diciamo che quando alla base della scrittura c'è lo storytelling, cioè c'è il racconto, le storie sono infinite e le storie diventano esattamente come Romeo e Giulietta, diventano attuali nel momento in cui il tempo si evolve, la società si evolve, ma le storie rimangono sempre attuali perché si parla sempre di un uomo e di una donna, si parla di un uomo e di un uomo, si parla di del rapporto con la provincia, del rapporto con tutto quello che ha a che fare con la vita dell'essere umano, anche nei suoi aspetti quelli meno nobili, quindi nella pigrizia mentale, quindi nel torbido che ognuno nasconde dentro di sé. Papà andava proprio a scavare dentro queste cose, insomma, e quindi per quello che secondo me le canzoni di papà saranno sempre attuali. Filippo, ma nelle parole di tuo padre ritrovi tuo padre, nel senso non il papà artistico, ma penso proprio il papà della quotidianità, cioè riconosci sue frasi, riconosci un suo modo di comunicare, di rapportarsi con l'altro. Ma allora io ho imparato che i genitori e il lavoro che fanno sono due cose completamente diverse. Ma questo è uguale per qualcuno che ha un padre che è al ristorante, non sarà lo stesso padre al ristorante che a casa, no? Uh-huh. Quindi è normale, questo diciamo che è una cosa che non... che ormai ho capito, anzi per me la cosa bella è scoprire l'altro lato, no? Cioè scoprire mio padre musicista girando per l'Italia e lavorando con le persone con le quali ha lavorato, diciamo che prendo un'altra visione e prendo una visione nuova e prendo una visione inedita ogni volta che parlo con qualcuno che ha avuto a che fare con papà, quindi è bello, è una ricerca, è una scoperta. Filippo, di solito i figli cosiddetti d'arte, no, vivono il rapporto con il padre o con la madre in maniera piuttosto, uh-huh, piuttosto contraddittoria, no? Nel senso che c'è chi sente la necessità di prendere grandemente le distanze dal percorso artistico che li ha preceduti e chi invece li accoglie proprio come parte della propria storia. E l'impressione che tu appunto, no, abbia scelto questa seconda via, cosa rappresenta nella tua vita essere figlio di una leggenda come Ivan Graziani? Ma io a volte ci scherzo con i miei amici abruzzesi, perché sai che papà era abruzzese, quindi automaticamente anch'io per una buona fetta lo sono, e i cognomi abruzzesi sono tutti, no, di Camillo, di Francesco, di Giovanni. E io ogni tanto ci scherzo con questa cosa, perché dico che gli abruzzesi e i norvegesi sono simili, perché, no, c'è Gustafsson, Eriksson, no, c'è il figlio di Eriksson. Allora io mi sento un po' come in una saga vichinga, no? Cioè io sono Filippo Ivanson, ecco, questo succede. Cioè quindi si va avanti, io sto portando quello che voglio fare, tolto che le mie soddisfazioni professionali come cantautore, alcune me le sono tolte e diciamo che quello è un work in progress che va avanti. Ma che vivo in maniera molto, molto leggera e molto spontanea, insomma quando mi va faccio un disco, ecco, per capirsi. Però questa cosa per me è molto naturale, e anche perché io penso che quando una canzone viene scritta poi può avere una sua vita personale, no? Cioè la canzone che poi si distacca da chi l'ha scritta, si distacca e diventa una sorta di marchio, no, familiare in qualche modo, cioè nella mia testa, insomma, queste cose, e quindi io sto semplicemente portando avanti il marchio di famiglia, quindi lo faccio con la passione totale proprio limpidità di intenti, perché quello che voglio è far vivere le canzoni sul palco di papà, perché sono nate per essere sul palco quelle canzoni. E saranno sul palco di Pescara alle 25, a Guardia Grele in provincia di Chieti alle 29, San Benedetto del Tronto il 31, poi sulla pagina Facebook di Filippo Graziani c'è tutto, poi il calendario in aggiornamento di questo tour estivo. Grazie davvero Filippo e ti salutiamo ascoltando le cose belle dalla tua bella voce. Ciao! Grazie a voi, ciao! sacrificare, se non mi voglio accontentare, di farmi fare i conti in tasca e diventare carne da statistica. Se le promesse che ci hanno fatto rimanere sotto, son disilluso e so cosa fare, sono un pirata e voglio navigare. E chi lo dice che non sia normale fare una vita irregolare? L'unica lezione che devo imparare, a volte anche le cose belle fanno male, a volte anche le cose belle fanno male. Ed è arrivato il momento dei saluti, grazie a tutta la squadra di Radio 24, Guido Scotti, Danilo Di Trani, Carmelo Lauricella. Noi ci prendiamo un mese di pausa, ci ritroviamo con i Padri Eterni domenica 6 settembre, sempre alle 11. Io invece da lunedì al venerdì alle 10 sarò in onda insieme a Telmo Pievani con Terra in Vista, la scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio, quindi saremo ancora insieme. Buon agosto, Matteo. Buon agosto a te, Fede, attenderò il tuo ritorno. Ci saremo, grazie come sempre e buona estate da Matteo Bussola e Federico Taddia. Ciao! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.